tutti, e per prima cosa grazie di essere venuti. E niente, siamo qui, sapete tutti perché, stamattina presentiamo questo libro di Giuseppe De Lutis, Il Golpe di Via Fani, e lo facciamo con un gruppo di ospiti veramente d'eccezione. E prima cosa quindi li ringrazio, e sono Giorgio Galli, Giuseppe De Lutis, Laura Bertoleviali, Aldo Giannulli che si è assentato un secondo ma rientra subito, Piero Colaprico, e attendiamo Nando Dalla Chiesa che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Io rubo pochissimo tempo all'introduzione perché sono veramente indegno di stare qui di fianco a questi ospiti. L'unica cosa, noi siamo un gruppo di studenti, Lapsus, avete visto, c'è una brevissima nostra presentazione sul retro del volantino che abbiamo distribuito in questi giorni. L'idea con cui abbiamo promosso questo incontro e altre iniziative anche l'anno scorso e un'altra settimana prossima è quella di cercare di studiare molti aspetti della storia contemporanea in un modo che secondo noi l'università un po' manca, un po', insomma, è un limite dell'insegnamento della nostra università, nel senso che su tanti aspetti non ci, purtroppo, sia per come è fatta, sia per come è strutturata, per motivi che non stiamo qui a disquisire, ci sono tutta una serie di problemi che fanno sì che la storia contemporanea non sia molto spesso né approfondita né studiata come andrebbe. E il caso Moro, che è l'argomento di cui ci occupiamo stamattina, è uno di quegli aspetti della storia repubblicana in particolare su cui praticamente non ci si sofferma se non in maniera molto sbrigativa, quando invece è una questione che oggi, quest'anno, nel trentennale dell'omicidio, è ancora, voglio dire, apertissima e piena di problemi irrisolti. Voglio dire, il libro di De Lutis è un passo importante nello studio di questi eventi, ma insomma sono argomenti tuttora da studiare, da approfondire. La nostra intenzione quindi è proprio quella di cercare di addentrarci un po' nei meandri della storia contemporanea, che a nostro modo di vedere presenta anche tutta una serie di problemi per quanto riguarda sia le fonti che molto spesso le categorie, la storiografia e tutto il resto. Io appunto mi fermo qui perché davvero rischio solamente di fare guai, e cedo immediatamente la parola a Giorgio Galli, che si presenta da solo per, voglio dire, la caratura, il valore dei suoi studi. Ecco che è arrivato Nando Dalla Chiesa, buongiorno. E gli cedo subito la parola chiedendogli di introdurci a quello che è il contesto in cui si arriva al caso Moro, chiedendogli ovviamente, poi saprà lui, come strutturare l'esultamento, per cui come iniziare a introdurci al clima di quegli anni, all'arrivo, a come si arriva al caso Moro e a come appunto si sono sviluppati quegli eventi. Grazie ancora e buona conferenza. Sì, il libro è molto...